Amici e compagni di Radio Bombat, benvenuti a questa breve puntata ferragostana del notiziario anticlericale. Dal settimanale Cronaca Vera del 1 agosto è segnalato il caso ancora di Emanuela Orlandi, la cittadina del Vaticano, figlia del postino del Vaticano, la quale probabilmente fu assassinata nell'ambito di un qualche turpe vicenda sessuale vaticana. E si parla, a pagina 12, appunto del fatto che il noto giornalista appena morto, Andrea Purgatori, si era occupato anche di questo caso terribile. Disgrazie clericali, da Cronaca Vera del 1 agosto. Travolta dall'albero mentre dormiva in tenda, guida scout cattolica, morta a solo 16 anni. È un nuovo caso, evidente, di assenza di ogni intervento divino del santo protettore degli scout, della Madonna, eccetera, eccetera, a proteggere i propri adepti. Torniamo ancora sulla strage clerico-fascista di Stato di Bologna. E dal Corriere della Sera del 3 agosto 2023 c'è una bella immagine in cui ci sono i condannati, tra cui Pietro Musumeci, ufficiale dei sismi, e Giuseppe Belmonte, ufficiale dei sismi, i servizi segreti. Ora, tutti i servizi segreti dipendevano dai ministeri. I ministeri allora erano in mano alla Democrazia Cristiana. Tutti i candidati della Democrazia Cristiana erano ovviamente cattolici approvati dalla Chiesa, quindi la responsabilità clericale è evidente, sia pure indiretta, a parte che anche i fascisti sono tutti clerico-fascisti, filocrocifissi. Sempre sul Corriere si parla di questo: la sorpresa maggiore delle ultime risultanze investigative fatte a Bologna. Il ruolo di organizzatore della strage attribuito a Federico Umberto D'Amato, per anni capo dell'ufficio affari riservati, che veniva nominato dal capo della polizia, il quale a sua volta veniva nominato dal ministro democristiano, i quali a loro volta erano tutti nominati in un modo o nell'altro dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Quindi la responsabilità della Chiesa, sia pure indiretta, è evidente. Proseguiamo la lettura dal dizionario storico enciclopedico Bompiani dell'elenco dei mercenari papali che hanno ammazzato e saccheggiato per secoli in Italia al servizio dei papi. Torquato Conti, duca di Poli, capitano generale delle fortezze papali, generale Achille de Thams Valencai, Rodolfo da Varano, signore di Camerino, Giovanni delle Bande Nere, Giuliano II de' Medici, capitano generale della Chiesa, Kanzler Hermann, comandante in capo dell'esercito pontificio, 1822-1888, e quello della Breccia di Porta Pia, Lamoricière Christophe, comandante dell'esercito pontificio, 1806-1865, e quindi quello della battaglia di Castelfidardo, in cui morirono una cinquantina di italiani, no? Conte d'Armagnac, capitano generale dell'esercito papale nel Medioevo, Niccolò II d'Este, capitano generale delle milizie della Chiesa, Napoleone Rossini, generale di Santa Chiesa, Mario Duca di Latera, condottiero e capitano pontificio, Pier Francesco Duca di Latera, capitano generale delle milizie pontificie, Orsini Gabriele, condottiero di Papa Niccolò V. Orsini Virginio, condottiero dello Stato Pontificio. Farnese Pierluigi, supremo capo militare dello Stato Pontificio e grande confaloniere di Santa Romana Chiesa. Tommassoni Alessandro da Terni, capitano dell'esercito papale. Paolo Vitelli, generale pontificio. Farnese Ranuccio, condottiero papale. Farnese Ottavio, comandante di un corpo di spedizione in Germania nel secolo XVI per combattere i luterani. Colonna Giovanni, capitano dell'esercito pontificio nel secolo XIII. ma la testa Pandolfo, secolo XIV, capitano dell'esercito pontificio. Albornoz Gomez, comandante dell'esercito pontificio, deve essere quello che era anche cardinale, secolo XIV. Nicolò da Montefeltro, connestabile della cavalleria pontificia e poi capitano generale. Ugolino da Montemarte, capitano della chiesa. Francesco da Montemarte, capitano della chiesa. Tomacelli Giovanni, comandante dell'esercito della chiesa. Orsini Paolo, comandante dell'esercito della chiesa. Bernardino degli Ubaldini, condottiero di Papa Martino V, 400. Malatesta Roberto, 400. Capitano pontificio della fortezza di Pontevico. Jean Depp, comandante supremo di una compagnia militare contro i ghibellini romagnoli. Conte di Montfort, comandante delle milizie pontificie. Malvezzi Pirro III, capo della fanteria pontificia alla battaglia di Lepanto. Niccolò da Tolentino, comandante delle truppe pontificie, 400. Malatesta Galeotto, 300, capitano generale delle truppe pontificie. Marucci Niccolò, 500, capitano di ventura dei pontifici. Lorenzo de' Medici, 1492-1519, capitano generale della Chiesa. Fra Moriale, 1300-1354, capitano di ventura, anche lui assoldato per ammazzare il prossimo nell'esercito pontificio. Benissimo, saluti, alla prossima puntata. Addio sacra corona, finì la monarchia, finì la monarchia.